Salve a tutti, io sono Jasmine, questa è Radio Big World e benvenuti alla quarta puntata di Curiosità Animate, dove vi parlerò dei classici Disney in specifico e delle loro caratteristiche. Il film di cui vi parlerò oggi è Dumbo, che in linea temporale è considerato il quarto classico Disney, infatti è stato distribuito nel 1941. Il film è stato prodotto quasi subito dopo la distribuzione di Fantasia, che a causa di molti fattori aveva provocato alcune perdite economiche allo studio. Lo stile del film è quindi meno dettagliato dei precedenti, e la storia può apparire semplice dato che non deriva da una fiaba. Infatti la trama è ripresa da un'illustrazione prototipo per un nuovo giocattolo, ovvero il Rollabook, una scatola che permetteva di leggere varie storie illustrate semplicemente facendole scorrere, come se fossero pellicole di un film. A Disney piacque molto la storia di Dumbo, illustrata da Ellen Arberson e Harold Pearl, perché era versatile e con un lieto fine. L'elefantino Dumbo, figlio di un'elefantessa di un circo, è preso in giro da tutti per colpa delle sue orecchie troppo grandi, ma sarà proprio grazie a questo difetto che l'elefante imparerà a volare e diventerà la star del circo. La storia ha quindi un protagonista carismatico e piacevole, ovvero Dumbo, in cui è facile immedesimarsi e apprezzare. Gli altri compagni del circo, che inizialmente vediamo come antagonisti, e Timoteo, il topolino amico di Dumbo, che lo aiuta per tutta la durata del film. Ed infine una madre molto premurosa. Tutti questi elementi hanno permesso alla trama di svolgersi in un modo lineare e di far comprendere a tutti la morale, che era appunto importante, il fatto di non prendere in giro gli altri, di apprezzarsi. Era una cosa che ai bambini e soprattutto ai genitori piaceva vedere in un film d'animazione. La caratteristica più importante di Dumbo è quindi la sua semplicità. E anche le animazioni sono molto semplici, proprio a causa del poco budget che era stato messo all'interno di questo lungometraggio. All'inizio era stato pensato anche come un cortometraggio, però a Disney piaceva molto la trama e infatti questa è stata una mossa molto intelligente anche economicamente. L'animazione, quindi, seppur semplice, è sempre molto curata e ad un certo punto ci sono anche alcuni riferimenti a fantasia, come nel sogno che avranno Dumbo e Timoteo dell'Elefantessa Rosa dopo aver bevuto lo champagne per sbaglio. Dumbo è stato accolto molto positivamente dalla critica e infatti dopo Biancaneve è stato il secondo film della Disney ad aver avuto più incassi, prima del 1943, ovvero l'anno dove usciranno di conseguenza molti film famosissimi. Quindi Dumbo, essendo stato accolto in un modo così positivo, nel 1941 la rivista Time voleva addirittura dedicare una copertina a Dumbo, chiamandolo appunto il mammifero dell'anno. Però poi nel dicembre del 1941, dopo l'attacco di Pearl Harbor, hanno deciso appunto di spostare questo tipo di copertina, però Dumbo ha avuto sempre comunque un ruolo centrale all'interno della categoria del cinema, all'interno appunto della rivista. Quindi Dumbo sin dall'inizio è stato un film molto apprezzato per il suo carattere semplice, però allo stesso tempo carismatico e comunque piacevole da vedere, e non era neanche un film molto lungo e quindi ha permesso a Disney di non spenderci molti soldi e gli incassi sono stati molto più alti del budget che hanno speso. Grazie per avermi ascoltato, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.